Angwa. Tata. Tonja penu di pinyangwa o abi endena ebo manda kusinoni kae ebo manda kusinoni kae ebo na bana wolo senga e Tonja monulo sangwa o e Tonja penu di pinyangwa o abi endena ebo manda kusinoni kae ebo manda kusinoni kae ebo na bana wolo senga e ewo beba belalo solo iyo di mabola ne iyo di mabola ne Seu eu ia copiar o assininho, Longo, longo sonar.